Aspetto qui seduto alla fermata. Passa prima il caldo al tram. E ho gli occhi che si chiudono a metà, ma dicono la verità. E si è alzato il vento, quello che è fastidio non ne dà. Si sta bene adesso, alle due di sabato in città. Tutto aspettando Candy Man con il suo sogno organizzato, ma Candy Man si sa, l'ha pagato. Sono l'uomo, l'uomo delle caramelle. Vendo stelle. Tanto sta cadendo neve rossa nell'asfalto, specchio è. Mentre qualcuno senza dirmi niente ha trasformato quella donna in un bignè. I giganti stanno in cielo a berci un tè, e che su quell'auto al volante un limone c'è. Tutto aspettando Candy Man con il suo sogno organizzato, ma Candy Man si sa, pagato. Sono l'uomo, l'uomo delle caramelle. Vendo stelle e non c'è niente da capire, c'è solo un sogno da comprare, giusto o sbagliato, è l'affare. L'uomo, l'uomo delle caramelle, vendo stelle.